Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. A Pocenia e in altre zone della Bassa Friulana si contano i danni dopo la violenta grandinata di ieri, con chicchi che hanno raggiunto i 5 cm di diametro, colpiti oltre 1000 ettari di coltivazioni. Pordenone, dipendente di ASFO, gestiva gli appalti e a tempo perso faceva l'idraulico e l'elettricista con materiali pagati dall'ospedale. Friulano denunciato per frode e peculato. Trieste, cinese denunciata per favoreggiamento della prostituzione ai danni di una sua connazionale. L'attività era svolta in un centro massaggi che è stato sequestrato. 53enne di Pordenone cade durante il riscaldamento che doveva precedere una partita di baseball e batte violentemente il capo, intubato sul posto, ora in gravi condizioni. Il comico napoletano Giobbe Covatta porta al Triart Festival di Butrio il suo spettacolo 6 in scena a Villa di Toppo Florio, la nostra intervista. Il castello del capoluogo friulano ha ospitato ieri sera il concerto di Marco Masini, questa sera al Via Udine Jazz con un evento dedicato alle vittime di Gaza. Le 12.31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. Si contano dunque i danni mai così ingenti della violenta grandinata che ha interessato ieri pomeriggio la Bassa Friulana, in particolare a Pocenia e alla Tisana. Sentiamo. Ettari di campi di mais e soia distrutti, angurie esplose dopo l'impatto dei chicchi di ghiaccio, un'intera annata di raccolto persa. La gradinata sul comune di Pocenia si è abbattuta dopo le 16.30 di ieri. Le nubi sono arrivate da nord e hanno scaricato la loro potenza su una vasta fascia colpita anche l'autostrada. I chicchi hanno sferrato il diametro di 5 cm. Le immagini del temporale hanno fatto subito il giro del web. Come una nevicata, il ghiaccio è rimasto lì per ore, ci raccontano gli agricoltori sconsolati. Quasi 1.000-1.200 gli ettari di colture colpiti. Non è la prima volta che succede, 2 anni fa si sono registrati danni anche agli edifici, ma questa volta l'intensità è stata straordinaria, così come l'estensione dell'area interessata. Il comune della Bassa chiederà un tavolo con la regione e lo stato di calamità naturale, lo ha confermato la vice sindaca Eva Buttò. Adesso si corre già ai ripari, dalla prima mattinata sono già al lavoro i mezzi per spargere prodotti fitosanitari sulle vigne e sulle uve rimaste. Pocenia, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Gestiva gli appalti dell'azienda sanitaria pordenonese, ma quando lasciava l'ospedale vestiva i panni dell'installatore e del manutentore. Ma non è tutto. Per svolgere la sua seconda attività si serviva di materiali idraulici, elettrici ed edili da lui stesso ordinati in virtù della posizione ricoperta all'interno dell'azienda sanitaria, ma formalmente destinati all'ospedale. L'uomo, 44 anni, friulano e residente a Udine, è stato denunciato per frode e peculato. È stato sospeso per un anno dal pubblico ufficio e gli è stato imposto il divieto di dimora nella provincia di Pordenone. Secondo le indagini condotte dalla questura di Pordenone, in più occasioni avrebbe ritirato personalmente i materiali presso i fornitori, eludendo i controlli interni e facendo figurare il tutto come regolare spesa pubblica. Tra gli episodi documentati anche l'installazione di uno scaldabagno in uno stabile privato, l'acquisto di attrezzature professionali usate per scopi personali e lavori eseguiti nell'abitazione della madre. In tutti i casi il materiale era stato ordinato attraverso le procedure dell'azienda sanitaria e pagato con fondi pubblici. Le indagini hanno fatto emergere, a partire dallo scorso gennaio, anche delle anomalie nell'assegnazione di appalti per la manutenzione idraulica, con affidamenti a imprese collegate a familiari o ex datori di lavoro dell'indagato. Su di lui pendono le accuse di peculato, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e frode nelle pubbliche forniture. Ancora cronaca, pagamenti in contanti, variabili tra gli 80 e 120 euro a prestazione a fronte di una ventina di clienti al giorno. È un sistema di passaggio di denaro tra la prostituta che lo guadagnava e la titolare di un centro massaggi gestito da cinesi, basato sull'occultamento dei soldi in un punto prestabilito del locale sotto il tappeto, così da evitare la presenza contemporanea tra la donna costretta alla prostituzione e chi violava i suoi diritti. Era un meccanismo ben collaudato, quello scoperto in seguito alle indagini dei carabinieri della compagnia triestina di Via Hermet e dirette dal pubblico ministero Federico Frezza. Gli accertamenti, avviati in primavera con il monitoraggio di alcuni centri, hanno individuato il reato di sfruttamento alla prostituzione compiuto da una donna cinese di 47 anni a danno di una sua connazionale. Una perquisizione compiuta sul posto nei giorni scorsi ha fatto poi emergere sia il denaro sia documenti di vario genere. a cui è seguita una denuncia per favoreggiamento della prostituzione e sequestro preventivo, già convalidato dal giudice per le indagini preliminari, dell'appartamento in cui avveniva l'attività di prostituzione. Il fenomeno spesso implica turni di lavoro di 15 ore senza interruzione per le vittime, in genere fragili, a volte addirittura tenute in schiavitù, che non hanno il coraggio di sporgere denuncia e non sono in grado di ribellarsi e far valere i propri diritti, e a cui vengono corrisposti compensi irrisori che raramente superano il 20% dell'incasso. Grave infortunio a Staranzano in un impianto sportivo nel quale stava per iniziare una partita di baseball. Un giocatore di 53 anni di Pordenone è caduto all'indietro battendo la testa contro un muretto. Era impegnato nella fase di riscaldamento che precede la gara quando, nell'effettuare una corsa all'indietro, è inciampato e caduto, battendo la testa contro un muretto che delimita il campo e riportando un grave trauma cranico. Vittima dell'infortunio è un 53enne di Pordenone che al campo di baseball di Staranzano si preparava ieri sera a giocare una partita della 12ª e ultima giornata della stagione regolare del campionato amatori softball Friuli Venezia Giulia. In campo avrebbero dovuto scendere le squadre amatoriali di Cervignano del Friuli e di Castelfranco Veneto. In quest'ultima milita, infatti, il giocatore infortunato. Dopo la caduta l'uomo è rimasto cosciente, sul posto è intervenuto l'elisoccorso. I sanitari lo hanno intubato e condotto all'ospedale di Udine. La partita non è stata disputata. Staranzano, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. A Trieste, poco dopo le 8 di questa mattina, è stata chiusa al traffico in modo parziale via dei Saltuari, con ingresso solo da via Stock, a causa di una buca che si è formata nel manto stradale e che è stata segnalata da passanti. Immediato l'intervento della multiutility dell'energia Cegas per lavori sul posto, che al momento rendono impossibile una previsione sul ripristino della circolazione. La pagina del meteo, il cielo in prevalenza variabile sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 23 gradi, il mare quasi calmo, con una temperatura di 25 gradi e mezzo. Gorizia 22, Udine e Pordenone 21 gradi e 5 decimi, Tolmezzo 19, Forni di Sopra 17, Tarvisio 16 e mezzo, Piancavallo e Sappada 15, Monte Zoncolan 12 e mezzo, Monte Lussari 11 e mezzo, grado 22 con una temperatura del mare di 24 gradi, Lignano 21 e mezzo con una temperatura del mare di 23. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per le prossime ore: cielo in prevalenza variabile, saranno probabili rovesci e temporali sparsi sulla zona montana, che in seguito potranno estendersi in pianura e forse anche sulla costa verso sera. Qualche temporale potrà essere localmente più forte, venti a regime di brezza. A Piancavallo più di 400 bambini e ragazzi all'Accademia di Rugby fondata dall'ex giocatore della Nazionale Martin Castro Giovanni. 420 bambini e ragazzi tra i 7 e i 17 anni si sono riuniti a Piancavallo per la Castro Rugby Academy, accademia ideata dall'ex campione della nazionale italiana Martin Castro Giovanni, presente in prima persona per supportare atleti e tecnici. L'iniziativa sportiva educativa ha raggiunto la 10ª edizione quest'anno anche con una squadra neocostituita di Wheel Rugby con atleti in carrozzina e una squadra femminile. Il gruppo ha scelto anche per quest'anno la località friulana, due turni da settimana ciascuno, il secondo arrivato oggi alla giornata conclusiva. Opportunità per bambini e ragazzi di confrontarsi a livello tecnico ma anche a livello mentale. La giornata prevede allenamenti, partite ma anche attività di mindfulness per imparare a conoscere le proprie emozioni e la consapevolezza di sé e diventare campioni non solo nello sport ma anche nella vita, come spiega Castro Giovanni, in una formula che piace ai ragazzi e alle loro famiglie. Piancavallo, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Il cartellone di oggi della 6ª edizione del Triar Festival, manifestazione dedicata al ruolo degli alberi nelle città, include tra gli appuntamenti lo spettacolo 6 con protagonista il comico napoletano Giobbe Covatta, noto per il suo impegno per la sostenibilità sociale e ambientale, che si terrà a Butrio nel parco della villa di Toppoflorio alle 20:30. In scena la questione dell'aumento della temperatura del nostro pianeta. Abbiamo intervistato Covatta per chiedergli come si vive quando la temperatura si alza di 6 gradi. Non si vive, la temperatura si alza di 6 gradi, noi siamo estinti. Ma d'altra parte non è una cosa grave, noi saremmo la 6ª estinzione, per cui ce ne sono state già 5 prima di noi. Non mi pare che il pianeta abbia fatto una piega, proprio nulla, non mi pare che non importa proprio il pianeta. dovrebbero preoccupare siamo noi e siamo gli unici che non si preoccupano. Ma non basta, andiamo ognuno. Poi affronta la vita come ritiene più opportuno. D'altra parte io ho sempre fatto una riflessione. Se ti graffiano la macchina e tu ti accorgi mentre ti stanno graffiando la macchina, parti di corsa, lo prendi e gli rompi la testa sullo sportello. Ti distruggono il pianeta, non te ne importa proprio. C'è anche il tema, secondo me, che dovrebbe essere preso in considerazione e che invece non viene mai considerato, ed è rimettere in ordine le priorità. Se riuscissimo a rimettere le priorità nell'ordine giusto, forse riusciremmo a scamparla. Ma se continuiamo a pensare che ci piace la Groenlandia perché possiamo scavarci i buchi per andare a cercare il petrolio, non siamo vivi. Incomincia questa sera Udine in Jazz. L'evento d'apertura sarà dedicato alle vittime dei conflitti a Gaza in Medio Oriente. Sul palco del Parco Moretti si alterneranno per una serie di interventi, letture e riflessioni rappresentanti di Medici Senza Frontiere, Time for Africa e Comitato per la Palestina. L'evento, intorno alle 19, proseguirà con il sassofonista Francesco Bearzatti e il collettivo Wicked Dub Division. Il loro incontro darà vita alla fusione tra improvvisazione jazz e dub elettronico. A seguire Rive No Tocce, collettivo della bassa friulana che mescola blues, jazz e folk con strutture cantautoriali, fondato dal chitarrista Fabrizio Citossi insieme al poeta Franco Polentarutti. I testi, ispirati a temi sociali e ambientali, sono in lingua friulana nella forma dialettale della bassa. E continuano anche i concerti all'aperto di quest'estate piena di musica. Ieri Marco Mazzini è arrivato in Castello a Udine con il suo Ci vorrebbe ancora il mare tour 2025. Era il nostro patto, fammi vivere per sempre. Due ore di concerto per ripercorrere una carriera lunga 35 anni. Marco Mazzini aveva dato appuntamento via social alla sua gente dopo il forfait del 7 luglio dovuto alle cattive condizioni meteo. E il suo popolo ha risposto, erano in 2000 in Castello a Udine per riascoltare una carrellata di successi senza tempo, a partire da Disperato che lo aveva rivelato al grande pubblico tra le nuove proposte del Sanremo 1990, a L'Uomo Volante che al Festival vinse nel 2004, senza contare Ti innamorerai, Perché lo fai e Ci vorrebbe il mare, che è il brano che dà il titolo ad un tour che sta portando Mazzini in giro per tutta l'Italia. Tutt'altra atmosfera al ristori di Cividale, che ha sostituito causa maltempo la situazione originaria a Bosco Romagno. Di scena Alan Taylor, uno dei maestri riconosciuti del folk inglese, che gira con la sua chitarra i palcoscenici di tutto il mondo dal 1971, quando di anni ne aveva 16, e che nel 1978 con The Traveller vinse il gran premio discografico di Montreux come miglior album folk dell'anno. Le sue canzoni sono state riprese da decine di artisti di varie nazioni, ma riascoltarle dalla sua voce profonda, accompagnate da uno stile chitarristico inconfondibile, è tutt'altra cosa. Stasera la rassegna Parchi nei palchi propone un concerto per voce, sassofoni, chitarre ed elettronica alla statua di Madre Natura a Forni Avoltri alle 18. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora parliamo di medicina. Per la prima volta in regione, per la terza in Italia, la clinica di malattie infettive di Udine, diretta dal professor Tascini, ha utilizzato la terapia fagica endovena in un paziente con una pompa cardiaca esterna che da un anno combatte con diversi episodi infettivi. Sentiamo dal professor Tascini cosa sono i fagi e a che cosa servono in questo contesto. I fagi sono virus che infettano e uccidono i batteri e in questo caso quindi li utilizziamo insieme agli antibiotici per poter cercare di debellare delle infezioni croniche, in genere su dei dispositivi in plastica oppure protesi in ceramica o in metallo. Quale importanza ha l'utilizzo di questa tecnica in un momento in cui i batteri super resistenti rappresentano una delle sfide più importanti per la medicina? È un una terapia molto utile proprio in associazione con gli antibiotici. Questa terapia era stata già sperimentata anche in Europa occidentale, in Francia, in Italia, al tempo della Prima Guerra Mondiale. Poi era stata abbandonata per via del fatto che gli antibiotici erano molto efficaci e era rimasta in auge principalmente nell'ex Unione Sovietica, dove c'erano degli istituti che portavano avanti la ricerca con i fagi. Col fallimento della terapia antibiotica, specialmente sui batteri gram negativi, su batteri che sono diventati multiresistenti, la riscoperta dei fagi ha permesso di combinare terapie che possono portare alla guarigione, ma non solo nelle infezioni protesiche, anche nelle infezioni polmonari, contro i micobatteri. Quindi ci sono numerose segnalazioni in letteratura e ci sono in molti paesi stanno pensando di produrli proprio per associarli agli antibiotici. Ancora qualche appuntamento, sono 25 gli artisti da tutta Italia che questa sera gareggeranno nella semifinale della 38esima edizione di Percotto Canta per concorso canoro nazionale. Solo 12 tra i partecipanti conquisteranno l'accesso alla finalissima che ha in palio un montepremi di 13.000 euro a Cividale nell'ex chiesa di San Francesco alle 21. Eseguirà un viaggio tra jazz, colonne sonore di film e ritmi sudamericani di grandi compositori del Novecento, da Ennio Morricone a George Gershwin. Il concerto è Portrait del Masculis Quartet, in programma Meduno in località Valinis allo Star Platz di Parapendio alle 18. I programmi della TGR domani mattina su questa rete, dopo la prima edizione del giornale radio delle 8.30, torna la nostra trasmissione dedicata all'agricoltura, vita nei campi. Sentiamo quali saranno gli argomenti della nuova puntata. Vita nei campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani presenta il neonato consorzio Riso Friuli Venezia Giulia, che punta a diffondere la cultura di questo cereale in asciutta. A seguire il colore del burro, bianco o paglierino, nella storia del gusto e del mercato. L'esempio spagnolo per riserve d'acqua interrate e antisiccità e come da vitigni antichi di scarso pregio discendono spesso le varietà moderne più apprezzate. E ancora fare il vino senza attrezzature specializzate, correzioni e fermentazione anche nella produzione familiare. I percorsi escursionistici ed alpinistici della riserva naturale della Valalba. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni meteo con una nota di climatologia locale e proverbio friulano della settimana. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. In regia, per la parte tecnica, Paolo Cassano e Viola Romanese. Ha collaborato in redazione Samantha Gon. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.